que il vento non levi, non ritorna quasi più, come se il respiro fosse la marea. Fa che quando mi vedrai, che è scantato prima o poi, non ritorni come ieri. E fa che tu non ti incontri mai, ma il telefono fra di noi sono lame contorte da cui non usciamo più. Dunque così, adesso è l'ora, ti rendo gli occhi tuoi. Questa è la via, la strada è vuota e tu. Come se il respiro fosse la marea. E ogni cosa che dirai da questo momento in poi sarà l'ultima e la prima che hai. Coraggio vai, adesso è l'ora, se no